Sono tutti così diversi. Boylan parlava della forma del mio piede. La notò subito, anche prima di essermi presentato, quando era al DPC con Poldi. Rideva e cercava di tender l'orecchio. Muovevo il piede. Avevamo ordinato tutti e due tè, pane e burro. Lo vidi guardare con quelle due zitellone di sorelle quando mi alzai e chiesi alla ragazza dov'era il... che me ne importava. Cominciava già a sgocciolare quelle mutande nere chiuse che mi ha fatto comprare. Ci vuol mezz'ora per calarle. Mi bagnavo tutto, una settimana sì e una no. Un nuovo ghiribizzo. E ne feci tanta. E poi lasciai i guanti di camoscio sul dietro della seggetta che non li ho più rivisti. Qualche ladra di donna. E lui voleva che lo mettessi nell'Irish Times, perduti nel gabinetto di BC Dean Street. Chi li trovasse pregato di restituirli a Mrs. Marion Bloom. E vidi che mi sbirciava i piedi mentre uscivo attraverso la porta bussola. Guardava ancora quando mi voltai. Io tornai lì a prendere il tè 2 giorni dopo, nella speranza di... Ma lui non c'era. Come lo eccitavano. Forse perché li incrociavo quando eravamo nell'altra stanza prima. Lui voleva dire le scarpe che sono troppo strette per camminarci. La mia mano è graziosa. Solo che avessi un anello con la pietra del mio mese di nascita. Una bella acquamarina. Gliene scroccherei una e un braccialetto d'oro. Non mi par tanto bello il mio piede. Pure l'ho fatto godere col piede una volta, la notte di quello schifo del concerto di Goodwin. Tanto freddo e vento, manco male c'era del rum in casa per fare il poncino e il fuoco non si era spento del tutto quando mi chiese di levarmi le calze, stesa sul tappeto davanti al caminetto in Lombard Street West. Beh, e un'altra volta? Erano le mie scarpe fangose. Voleva che camminassi su tutta la merda di cavallo disponibile. Ma si capisce, non è normale come tutti. Che io cosa diceva? Che io potevo dare 9 punti di vantaggio su 10 a Katie Lenner e batterla lo stesso. Che significava? Gli chiesi. Non mi ricordo cosa disse perché l'ultima edizione era appena uscita. E quel riccioluto della latteria Lucan, che è tanto carino. Credo di aver già visto la sua faccia da qualche parte. Lo notai mentre assaggiavo il burro e allora me la presi a comodo. Anche Bartel Darcy, che lui pigliava in giro, sì, anche lui, cominciò a baciarmi sugli scalini del coro dopo che avevo cantato l'Ave Maria di Gounod. Cosa aspettiamo? Oh mio tesoro, baciami subito sulla fronte in quel posto che è scuro. Era parecchio caldo, nonostante quella voce da raganella. Le mie note basse lo mandavano sempre in visibilio a sentir lui. Mi piaceva la bocca che faceva quando cantava. Poi disse che era orribile far quella cosa in un posto come quello. Non ci vedo niente di orribile. Un giorno glielo voglio raccontare per farlo restare a bocca aperta. Ora no. E come? E ce lo porterò. E gli farò vedere proprio il posto dove lo abbiamo fatto. Ecco qua. Bere o affogare? Crede che non possa succedere nulla senza che lui lo sappia. Non aveva un'idea di mamma. Prima che ci si fidanzasse, se no non mi avrebbe avuta per così poco. Lui era 10 volte peggio comunque. Mi scongiurava di dargli un pezzettino di mutande. È stato la sera che si passava da Kenilworth Square. Mi baciò l'occhiello del guanto e mi toccò levarmelo e a farmi domande. E si era lecito sapere com'era la mia camera da letto. E allora glielo lasciai tenere, come se lo avessi dimenticato. E pensare che lo vidi benissimo, che se lo infilava in tasca. E poi va pazzo per le mutande. Si vede benissimo, sempre a sbirciare quelle sfacciate in bicicletta con le sottane in su fino al bellico. Anche quando era fuori con me e con Millie, a quella festa all'aria aperta, quella con Mussolina color crema che stava in piedi contro luce. Così lui le vedeva ogni cosa che aveva addosso. Quando mi guardava di dietro seguendomi sotto la pioggia. Io lo vidi prima che lui vedesse me, comunque, fermo a un angolo del crocicchio di Harold's, con l'impermeabile nuovo addosso, una sciarpa alla zingara per far risaltare la carnagione e il cappello marrone, con la solita aria furbacchiona. Cosa faceva lì, dove non era affar suo? Possono prendersi tutto quel che vogliono da una sottana e manco gli puoi dire qualcosa. Loro però vogliono sapere dove sei stata, dove vai. Me lo sentivo dietro che mi pedinava e mi teneva gli occhi fissi sul collo. Si era tenuto lontano da casa. Capiva che il terreno cominciava a scottare. Allora mi voltai a metà e mi fermai e presi a tempestarmi perché dicessi di sì, finché mi levai il guanto pian piano guardandolo. Disse che le mie maniche traforate non tenevano caldo con la pioggia, qualsiasi scusa buona per mettermi le mani addosso. Mutande, mutande, tutto il tempo benedetto, finché non gli promisi di dargli quel paio della bambola da portare in giro nella tasca del panciotto. Oh, Maria Santissima, che aria da stupido, gocciolante sotto la pioggia, che bei denti aveva. Faceva venir fame a guardarli e mi scongiurava di alzare quella sottoveste arancione pieghettata a campana. E non c'era nessuno, diceva che si sarebbe inginocchiato sotto la pioggia se io non... Così cocciuto da farlo sul serio e rovinare l'impermeabile nuovo. Non si sa mai cosa gli piglia a restar soli con noi, son così affamati. Se fosse passato qualcuno, l'ho tirato un po' su e gli ho toccati i pantaloni dal di fuori, come faceva Gardner, poi con la sinistra per impedirgli di far peggio, dove c'era troppa gente. Morivo dalla voglia di vedere se era circonciso. Tremava come gelatina dalla testa ai piedi. Voglio fare tutto troppo alla svelta. Si perde tutto il piacere. E papà, che intanto aspettava la cena, mi disse di dire che avevo lasciato il portamonete dal macellaio e che ero dovuta tornare a prenderlo. Che imbroglione. Poi mi scrisse una lettera con tutte quelle parole, come faceva aver la faccia tosta con qualsiasi donna dopo le sue maniere di uomo di mondo, rendendo la cosa così imbarazzante dopo quando ci rincontrammo, e mi chiese: vi ho forse offesa? Io con gli occhi bassi, si capisce, vide benissimo che non aveva un po' di sale in zucca, non come quell'altro sciocco di Henry Doyle, che strappava o rompeva sempre qualcosa durante le sciarade. Non posso soffrire la gente maldestra. E se sapevo quel che voleva dire, naturalmente dovetti dire di no per la forma. Dissi: non vi capisco. E non era forse naturale? È certo che lo è. Era sempre scritto sul muro, con la figura di una donna lì a Gibilterra, con quella parola che non riuscì a trovare in nessun posto, solo che i bambini non la vedessero, troppo giovani. Allora scrivevo una lettera tutte le mattine, qualche volta due al giorno. Mi piaceva come faceva all'amore. Poi sapeva come si prendono le donne. Quando mi mandò quegli 8 grandi papaveri perché ero nata l'8. Allora scrissi, la sera che mi baciò sul cuore Dolphin's Bar. Non saprei descriverlo, solo che ti fa sentire una cosa dell'altro mondo. Ma lui non sapeva abbracciar bene come Gardner. Spero che tornerà lunedì, come ha detto, alla stessa ora, alle 4. Non sopporto la gente che viene a tutte le ore. Rispondere alla porta. Pensi sia la verdura, poi è qualcuno e tu sei tutta svestita. O la porta della cucina sudicia, lercia, che s'apre da sé. Quel giorno che quella quaresima di Goodwin venne a farmi visita per il concerto in Lombard Street e io subito dopo pranzo tutta rossa e spettinata a forza di far cuocere lo stufato. Non mi guardi, professore, mi toccò dire, sono uno spaventapasseri. Sì, ma lui era un vero signore a suo modo. Era impossibile essere più rispettosi. Nessuno a dire che non ci sei. Bisogna guardare dalla tendina, come il fattorino, oggi. Da prima credetti che rimandasse la visita. Quel mandare il porto e le pesche in anticipo e cominciavo già a sbadigliare con un po' di nervi, pensando che cercava di canzonarmi. Quando riconobbi il suo tataratà alla porta, doveva essere un po' in ritardo, perché erano le 3:15 quando vidi tornare da scuola le due ragazze Dedalus. Non so mai l'ora, anche quell'orologio che mi ha dato non va mai bene, pare. Bisognerebbe farlo riguardare. Quando tirai il pegno a quel marinaio zoppo. Per l'Inghilterra, la casa e la beltà. Quando fischiettavo, c'è una bella ragazza che amo. Non mi ero neanche messa la camicia pulita, né da tracipria né altro allora. Oggi a 8 si deve andare a Belfast. Ottima cosa che lui debba andare a Ennis, anniversario di suo padre il 27. Non sarebbe piacevole che lui. Mettiamo che le nostre stanze all'albergo fossero vicine e facessimo qualche sciocchezza nel letto nuovo. Non gli potrei dire di smettere e di non seccarmi con lui nella stanza accanto, o forse qualche pastore protestante con la tosse busserebbe al muro. Allora non crederebbe mai il giorno dopo che non abbiamo fatto nulla. Va bene col marito, ma l'amante non la si fa. Dopo che gli ho detto che non si faceva mai nulla, e si capisce, non ci ha creduto. No, è meglio che vada dove va. E poi succede sempre qualcosa con lui. Quella volta che si andava al concerto Mello a Maryborough, ordinò una minestra bollente per tutti e due. Poi suonò il campanello e lui che ti va lungo la pensilina con la minestra che schizzava di fuori, prendendone fuori cucchiaiate, che faccia di corno. E il cameriere dietro a lui che ci fece fare una figura. E gli strilli e la confusione, che la macchina partiva, ma non volle pagare prima di aver finito. I due signori nello scompartimento di terza classe dicevano che aveva tutte le ragioni. E così era. È così testone alle volte se si caccia in mente qualcosa. E meno male che gli riuscì di aprire lo sportello col temperino, se no ci portavano fino a Cork, mi dà l'idea che l'avevano fatto per vendicarsi. Oh, mi piace fare gite in treno, in carrozza, con dei bei cuscini morbidi. Chissà se mi prenderà la prima classe. Potrebbe avere intenzione di farlo in treno, dando una buona mancia al controllore. Oh, mi dà l'idea che ci sarà quel solito branco di idioti a tenerci gli occhi addosso, stupidi quanto è possibile esserlo. Era un uomo straordinario, quel semplice operaio che ci lasciò soli nello scompartimento quando si andò a Oz. Mi piacerebbe sapere qualcosa di lui. Una o due gallerie, forse. Poi bisogna guardare fuori del finestrino. E poi è anche meglio al ritorno. Supposto che non tornassi, cosa ne direbbero? Scappata con lui, quello che ti fa andare avanti sulle scene. L'ultimo concerto che cantai, dove è stato? Più di un anno fa. Quando è stato? Sala Santa Teresa, Clarendon Street. Ora non c'è altro che ragazzine che cantano. Kathleen Kearney e roba del genere, perché papà è nell'esercito. E io cantai il mendicante distratto e portavo la spilla per Lord Roberts quando avevo la carta di tutta la guerra. E Poldi, non abbastanza irlandese, era stato lui a organizzare tutto quella volta. Non ci mettere la mano sul fuoco. Come quando mi fece cantare nello Stabat Mater, andando in giro a dire che stavo musicando Guidaci dolce luce. Gliel'avevo messo in testa io, finché i gesuiti non scoprirono che era massone. Pestava sul piano Guidami tu, copiato da qualche vecchia opera, sì. E di recente andava in giro con qualcuno di quei Schinner Fein, o come diavolo si chiamano, a raccontare le solite buggerate. Dice che quell'omino senza collo che mi ha fatto vedere è molto intelligente, l'uomo dell'avvenire, come si chiama, Griffith. L'aria però non ce l'ha e non posso dire altro. Però deve essere stato lui, sapeva che c'era un boicottaggio. Non posso neanche sentirne parlare della loro politica dopo la guerra, Pretoria, Lady Smith, Bloemfontein, dove Gardner, tenente Stanley G., 8° battaglione, 2° reggimento lancieri del Lancashire, di dissenteria. Era un bel ragazzo in cachi, più alto di me, quel tanto e non più. Sono sicura che era anche coraggioso. Disse che ero carina la sera che mi dette il bacio d'addio alla chiusa del canale. Oh, mia bella irlandesina! Era pallido per l'eccitazione della partenza, o perché ci avrebbero potuto vedere dalla strada. Non si reggeva bene in piedi. E io, calda come non m'era mai capitato. Avrebbero potuto far la pace da principio. O il vecchio zietto Paul e tutti gli altri vecchi Kruger se la fossero combattuta tra loro la guerra, invece di tirare avanti per anni ad ammazzare tutti quei bei ragazzi con la dissenteria. Se almeno gli avessero sparato sarebbe stato un po' meglio. Mi piace di veder sfilare un bel reggimento. La prima volta che vidi la cavalleria spagnola alla Rocca era bello, dopo guardare dall'altra parte della baia ad Algeciras tutte le luci della Rocca come lucciole. O quelle grandi manovre sui 15 acri, le guardie nere coi gonnellini ondeggianti in cadenza alla sfilata, il decimo ussari, quello del principe di Galles, o i lancieri, oh, meravigliosi lancieri, o i Royal Dublin che conquistarono Tugela. Suo padre ha fatto quattrini rivendendo cavalli alla cavalleria. Beh, mi può benissimo comprare un regalino a Belfast dopo quello che gli ho dato. Hanno della biancheria finissima lassù. Oppure uno di quei bei kimoni. Bisogna che compri un po' di naftalina come quella che avevo per metterla nel cassetto. Sarebbe eccitante andare in giro con lui a far spese, a comprare quelle cose in una città nuova. Meglio lasciare quest'anello a casa. Bisogna girarlo e rigirarlo per farlo passare sopra alla nocca. Se no, c'è caso che suonino l'allarme sui giornali per tutta la città o mi denunciano alla polizia. Ma crederebbero che siamo sposati. Oh, ma che vadano un po' tutti a farsi friggere, per quel che me ne importa. Ha un sacco di soldi e poi non è tipo da pigliar moglie. Bisogna pure che qualcuno gliene peli un po'. Se potessi scoprire se gli piaccio o no. Avevo l'aria un po' sbattuta quando mi sono guardata da vicino in quello specchietto nel darmi la cipria. Uno specchio non ti dà mai l'espressione. E poi tutto il tempo ponzarmi addosso in quel modo, con quelle ossa mastodontiche del bacino. È pesante. E poi quel petto peloso. Con questo caldo, doversi mettere giù per loro. È meglio che me lo metta da lì dietro, in quel modo come Mrs. Mastiansky mi disse che le faceva fare suo marito, proprio come i cani, e tirar fuori la lingua più che poteva. E lui con quell'aria dolce e tranquilla e quella cetra che fa tin tin. Non Non ce la fai mai con gli uomini, con tutto quel che gli salta in testa. Bella stoffa quel completo azzurro che aveva, e la cravatta stilè, e le calze con quegli affari di seta azzurro cielo ricamati sopra. Se la passa bene, di certo, lo vedo dal taglio dei vestiti e quel grosso orologio. Ma sembrava un indemoniato per qualche minuto dopo che era tornato, con l'ultima edizione, strappando i biglietti e mandando tutti al diavolo perché aveva perso 20 sterline. Diceva d'aver perso per quell'outsider che aveva vinto. E la metà ce l'aveva messa per me su consiglio di Lenian. Lo mandava fino in fondo all'inferno, quello scroccone. Si prendeva delle libertà con me, dopo il pranzo di Glencree, tornando durante quel traballio che non finiva più sul monte del letto di piume. Dopo che il sindaco mi aveva guardato con quegli occhi da porco. E Valdillon, quel grosso screanzato, l'ho notato la prima volta al dessert, mentre schiacciavo le noci coi denti. Morivo dalla voglia di succhiarmi uno per uno gli ossi di quel pollo con le mani. Era così buono, e rosolato, e tenero, solo che non volevo mangiare tutto quello che c'era nel piatto. E poi quelle forchette posate da pesce erano d'argento massiccio. Me ne piacerebbe qualcuna. Ne potevo anche infilare un paio nel manicotto, giocherellandoci. Sempre dipender da loro per i soldi, al ristorante, per ogni boccone che ti cacci giù, dobbiamo essere grate anche per una rognosa tazza di tè, come se fosse un gran favore. Guarda com'è diviso il mondo. In ogni caso, se la cosa deve andare avanti, voglio almeno altre due belle camicie, per cominciare. Però non so che tipo di mutande gli piace. Mi sa che preferisca niente del tutto. L'ho anche detto, sì. E metà delle ragazze di Gibilterra non ne portavano, nude come Dio le ha fatte, quell'andalusa che cantava la sua Manola. Non faceva mistero di quel che non aveva, sì. E quel secondo paio di calze imitazione seta che si sono smagliate dopo un giorno che le portavo, le avrei potute riportare dagli Ur stamani e fare una scenata e farmele cambiare, se non fosse stato per non agitarmi e correre il rischio di intopparlo e rovinare tutto. E mi ci vorrebbe uno di quei busti che calzano come guanti, offerto a buon prezzo nella Donna Elegante, con soffietti elastici sui fianchi. Lui era acconciato, quell'unico che mi resta, ma non serve a nulla. Cosa diceva? Che conferisce una linea deliziosa per 11 scellini e 6 pence, ovviando alla spiacevole impressione di ampiezza sotto le reni, diminuendo il grasso. Ho messo su un po' di pancia. Dovrò bollire la birra ad esinare. Oppure ci piglio troppo gusto. L'ultimo che hanno mandato da O'Rourke era una risciacquatura di piatti. Fa i soldi facile, Larry, come lo chiamano. Che regalo micragnoso ho mandato per Natale. Un dolce casalingo e una bottiglia di sbroda che faceva passare per Chiaretto. Non era riuscito a farla bere a nessuno. Dio gli risparmi la saliva, che non abbia a morir di sete. Oppure bisogna che faccia un po' di esercizi respiratori. Chissà se quel dimagrante serve a qualcosa. Potrebbe anche essere troppo. Le donne magre non sono più tanto di moda. Quanto a giarrettiere, ho quel paio viola che portavo oggi. È tutto quel che mi ha comprato con l'assegno che ha riscosso il primo. Oh no, c'è stata la lozione facciale che ho finita ieri e mi ha rimesso a nuovo la pelle. Gli ho detto e ripetuto, falla rifare allo stesso negozio e non ti dimenticare. Dio solo lo sa se l'ha fatto fare o no, dopo tutto quello che gli ho detto. Me ne accorgerò dalla bottiglia comunque. Se no, mi dovrò lavare con la pipì, come brodo grasso e brodo di pollo, con un po' di quello Poponax e violetta. Ho visto che cominciava a farsi un po' ruvida e vecchia la pelle. Di sotto è più fine, là dove si è spellata sul dito dopo la bruciatura. È un peccato non sia così dappertutto. Quei 4 miserabili fazzoletti, 6 scellini, in tutto giù di lì. È certo che non si può andare avanti a questo mondo senza stile. Tutto se ne va per il mangiare e per l'affitto. Quando ne avrò un po', li farò correre con tanto di stile, ti dico io. Sempre ho una voglia pazza di buttare una manciata di tè nella teiera. Lui a contare le foglie e misurar tutto. Anche se compro un par di scarpacce all'antica. Ti piacciono le scarpe nuove? Sì, quanto sono costate? Non ho niente da mettermi addosso. Completo marrone, gonna e giacchetta. E l'altro dal tintore, 3. Che cos'è per una donna? Ritagliare un cappello vecchio e rattopparne un altro. Gli uomini non ti guardano e le donne cercano di pestarti i piedi perché sanno che non hai l'uomo. E poi con tutto che rincara di giorno in giorno. E i 4 anni che mi restano ancora per arrivare ai 35. No, quanti ne ho? Saranno 33 a settembre, vero, mi pare. Oh, beh, piglia Mrs. Galbraith. È molto più vecchia di me. L'ho vista quando sono uscita la settimana scorsa. La sua bellezza è in declino. Era una bella donna, magnifica capigliatura, le arrivava alla vita, la gettava indietro a quel modo, come Kitty O'Shea di Grantham Street. Prima cosa che facevo ogni mattina, guardar di faccia per vederla lì a pettinarsi, come se le piacesse tanto e ne fosse tutta presa. Peccato che arrivai a conoscerla solo il giorno prima di andar via. E quella Mrs. Langtry, il giglio di Jersey, se n'era innamorato il principe di Galles. Io dico che ha come il primo venuto, a parte il nome di re, sono tutti fatti allo stesso modo. Quello di un negro, però, mi piacerebbe provarlo. Bella, fino a che età? 45. C'era una storia buffa sul vecchio marito geloso. Di che si trattava? È un coltello da ostriche. Lui andava. No, le faceva portare addosso un aggeggio di latta. E il principe di Galles, sì, aveva un coltello da ostriche. Può essere vera una cosa del genere? Come qualcuno di quei libri che mi porta, le opere di Mastro François Tal dei Tali, che dicevano fosse un prete, a proposito di un bambino nato da un orecchio perché il budello del posteriore le era uscito di fuori. Bella parola dalla penna di un prete. E il suo QO, come se qualsiasi imbecille non sapesse cosa voleva dire. Non posso soffrire tutte quelle finzioni. Con quella faccia da vecchio farabutto. Tutti vedono benissimo che non è vero. E quella storia di Ruby e le belle tiranne, che me l'ha portata 2 volte. Mi ricordo quando arrivai a pagina 50. Quella parte dove lei l'appende a un uncino con una corda. Flagellare. Non c'è niente che possa attirare una donna lì dentro. Tutta roba inventata. Con lui che beveva champagne nella pantofola di lei dopo che era finito il ballo. Come il bambino Gesù nel presepio a Inchicore, tra le braccia della Santa Vergine. Certo che da nessuna donna si potrebbe cavar fuori un bambino grosso in quel modo. E io da principio credevo le fosse uscito dal fianco, perché come faceva a mettersi sul vaso quando aveva bisogno? Lei è una signora ricca, naturalmente, si sentiva onorata, Sua Altezza Reale. Era Gibilterra l'anno che sono nata io. Scommetto che ha trovato dei gigli. Anche là, dove ha piantato l'albero, ha piantato anche qualcosa di più ai suoi tempi. Avrebbe potuto piantare anche me. Se fosse venuto un pochino prima, ora non sarei qui. Dovrebbe lasciare quel Freeman per quei 4 soldi che ne cava e andare in un ufficio o qualcosa del genere, dove avrebbe uno stipendio regolare. O in una banca, dove lo metterebbero su un trono a contar soldi tutto il santo giorno. Naturalmente lui preferisce bighellonare per casa, così non si può neanche alzare un dito, sempre alle costole. Che programma hai oggi? Preferirei fumasse la pipa, come papà, ci sarebbe almeno un po' d'odore d'uomo. Oppure girella quella facendo finta di cercare annunci pubblicitari, quando poteva rimanersene da Mr. Cuff, se non fosse per quel che combinò. Poi mandò me per cercare di accomodare i cocci. L'avrei potuto far promuovere a direttore là. Una volta o due mi ha dato una gran mirata. Prima era freddo come il ghiaccio. Davvero? Veramente, Mrs. Bloom? Solo che mi sentivo completamente a terra con quello straccio di vestito di cui persi i piombini della coda. E poi non aveva linea. Ma ora torna di moda. L'ho comprato solo per fargli piacere. Avevo visto dalle rifiniture che non era un granché. Peccato che ho cambiato idea. Non sono andata da Todd Barnes, come avevo detto. Invece da lì era una spelonca di negozio. Quella liquidazione, un mucchio di porcherie. Non posso soffrire, quei negozi di lusso mi danno i nervi. Non c'è nulla che mi butti giù a quel modo. Solo che lui crede di sapere un sacco di cose sui vestiti delle donne e sulla cucina. Ci caccia dentro tutto quel che gli capita a tiro sulle mensole. Se stessi a sentir lui, qualsiasi cappello che provo mi sta bene. Sì, prendi quello che va benissimo. Quello che sembrava una torta nuziale alto un par di miglia sulla testa. Lui diceva che mi stava bene. Ho quella pignatta che ricadeva giù sulla schiena. E lui col fuoco al sedere, per quella commessa in quel negozio di Grafton Street dove mi venne l'infelice idea di portarlo. E lei insolente quant'altre mai, con quel sorrisetto. E lui a dire, ci spiace darle tutto questo disturbo. E lei che ci sta a fare allora? Ma io l'ho mangiata viva con un'occhiata. Freddo, sì, era freddo, maledettamente. E sfido io, ma cambiò registro dopo avermi guardato una seconda volta. Polli, testardo come un ciuco, come al solito. Ma mi sono accorta che mi guardava fisso il petto quando si alzò per aprirmi la porta. Fu molto carino ad accompagnarmi all'uscita. In ogni modo, sono spiacentissimo, Mrs. Bloom, mi creda. Senza accentuar troppo, la prima volta che lui era stato insultato e io considerata sua moglie, dopo tutto, ho sorriso appena. So bene che il mio petto sporgeva in fuori in quel modo, alla porta, quando ha detto: sono spiacentissimo. E ci credo.